così, ma non ti fare pregiudizi sulla barba lunga o i vestiti sporchi, già sappiamo come il cuore unisca cani, porci e suore. Sospeso.